Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane, dalle ore 20 alle 21.30, ma andiamo con quella che è la sigla di questa trasmissione. Bene, questa era la sigla di apertura di questo programma che è Zardins Magnetics, che andrà in onda fino alle ore 21.30, completamente in diretta radiofonica qui da studi di Radio Onde Furlane, oggi giovedì 11 aprile. Ricordo che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il carcere e la repressione di Trieste e Friuli. Ora andiamo con l'ascolto di questa band croata, esattamente di Pola. Loro sono i Past Matters, dal loro album You Can't Stop This, che è datato 2016. Ritual y piruda, primitivo, pedelón. Sì, un saluto anche da parte mia. Torniamo dopo l'assenza dello scorso giovedì. E allora, per stasera il primo punto, diciamo, di quella specie di sommario, così che mandiamo anche un po' in giro agli ascoltatori e alle ascoltatrici, recita: resistere all'istigazione al collaborazionismo dello Stato. E questa, così, questa frase, così mi è venuta in mente leggendo alcune cose, insomma, interessanti in questi giorni. Allora, intanto, una iniziativa che si è svolta il 5 aprile a Genova, un incontro che parlava della Palestina, però affrontava la questione da questo punto di vista: dall'internazionalismo alla solidarietà umanitaria come investimento economico neoliberista e strumento di ricatto. Quindi praticamente in questo incontro i compagni hanno affrontato la faccenda dell'indebolimento della militanza internazionalista e, conseguenza di questo indebolimento, appunto, il grosso della solidarietà che viene praticata in Occidente si è progressivamente piegato ai progetti di cooperazione allo sviluppo capitalista. Quindi che cosa succede? Si sono affermate nuove figure ibride come operatori umanitari, cooperanti dal basso, eccetera, per cui praticamente la carriera professionale, cioè il desiderio di carriera professionale e anche il bisogno di reddito, banalmente, e si sono fusi, diciamo, con l'attivismo politico. E questa faccenda del collaborazionismo, appunto, chiamiamola, sintetizzando così, veniva affrontata, cioè l'abbiamo affrontata anche qui, insomma, parlando a più riprese di varie faccende, ma viene così dialettizzata, diciamo, e espansa in un contributo delle compagne della Coordinamento Femminista e Lesbica di Roma, un contributo sonoro che potete ascoltare nel loro blog di un annetto fa, insomma, era Conversazioni verso l'8 marzo 2023, in cui appunto le compagne un po' analizzavano il discorso delle democrazie occidentali e di questo meccanismo perverso e vincente che prevede la strumentalizzazione dei diritti umani, delle donne, delle diversità, sia sul fronte interno che su quello esterno. E le compagne un po' spiegavano così questo meccanismo perverso: vengono eletti a rappresentanti delle donne, delle differenze sessuali, di quelle etniche, eccetera, degli oppressi, diciamo, in senso generale, coloro che, provenendo da questi ambienti oppressi, si prestano, in cambio della promozione personale e sociale, a perpetuare l'oppressione delle aree da cui provengono, presentando diciamo lo Stato come democratico e garantendone in qualche maniera la democraticità con la loro esistenza e avallando così la persecuzione di chi non è disposto a subire questo e si ribella. Infatti, ritornando ai compagni di Genova, anche loro fanno notare che il fatto di aver ceduto terreno sul piano dell'internazionalismo per piegarsi, diciamo, a questa solidarietà umanitaria, diciamo, e a questo che ha come retroscena questo investimento economico neoliberista, comporta, per chi sceglie invece di agire al di fuori della logica dei diritti umani, e che relega tra l'altro gli oppressi al ruolo di vittima, l'essere criminalizzato come nemico della democrazia, ed è quello che vediamo succede sempre più spesso. Allora, per ritornare un attimo alla Palestina, ad esempio, praticamente in Palestina ci sono queste organizzazioni umanitarie, insomma, però bisogna dire, ad esempio, che per accedere agli aiuti internazionali le persone devono rinunciare al diritto al ritorno, che è uno dei, così, dei motivi di lotta, dei motivi, una delle rivendicazioni basilari per i palestinesi, per le palestinesi. E quindi ecco, che cosa succede? Che chi lavora in questi sistemi, in questi carrozzoni, insomma, umanitari, in realtà, e anche nel sistema di accoglienza peraltro qui da noi, si trova costretto proprio intrinsecamente a collaborare al disciplinamento degli immigrati alla società dello sfruttamento e dell'alienazione. E tra l'altro, attraverso queste forme, diciamo, il capitalismo neoliberista, attraverso queste forme, diciamo, di cooptazione, di istigazione al collaborazionismo, annienta praticamente, annienta qualsiasi forma di possibilità di uscire da questa società, no? Le compagne della coordinamenta femminista e lesbica di Roma, ad esempio, fanno notare, dicono, sempre in questo contributo, insomma, sonoro, dicono che in realtà la lotta per i diritti è un assurdo in termini, oggi come oggi, in quanto il capitalismo neoliberista ha chiuso con la contrattazione con i cosiddetti subalterni, cioè non c'è più spazio per fare una lotta per i diritti. L'unica possibilità che viene lasciata aperta è quella del collaborazionismo e quindi quella dell'inglobamento, della cooptazione. Sì, ecco, un'altra cosa, questa, quindi la responsabilità anche, no, di tutti quelli che comunque anche per necessità, diciamo, economica, di lavoro, ma entrano in queste dinamiche, è quella anche di favorire la formazione anche tra gli oppressi, proprio tra gli oppressi più oppressi. Vediamo il caso dei popoli colonizzati, depredati, eccetera, come quello palestinese. Favorire la formazione di ceti politici, diciamo, anche all'interno degli stessi oppressi, che bloccano inevitabilmente, insomma, distruggono qualsiasi utopia, diciamo, di rivoluzionaria. E quindi questa è una roba molto pesante che andrebbe sempre, per come la vedo io, insomma, bisognerebbe sempre tener presente questa roba e cercare di non sorvolare, siccome si tratta di noi occidentali, non sorvolare su queste faccende, perché siccome spesso ci si produce il reddito così, allora si tende a autogiustificarsi, diciamo. Invece non è questione di colpevolizzare, ma è questione di avere coscienza che certe cose vanno rotte, insomma, cioè delle robe devono essere rotte, altrimenti se non vengono rotte non rimane tutto ingessato. Allora, facciamo un momento, mettiamo un pezzo musicale e poi continuiamo un ragionamento con un altro filo. Come Ecco, e colleghiamo con il discorso che si stava facendo un altro pezzo. Oggi, che è l'11 aprile, l'Unione Europea ha così fatto il primo passo per varare il patto migrazione, e trasformando, diciamo così, l'Unione Europea stessa da fortezza, quella che era già una fortezza super blindata, in una vera e propria prigione. Allora, Ursula von der Leyen ha detto: oggi è davvero una giornata storica, dopo anni di intenso lavoro il patto di migrazione e asilo diventa finalmente realtà. Allora, che cosa implica questo patto? E implica la creazione alle frontiere di centri di identificazione dove le persone devono essere identificate entro 7 giorni, e anche ai bambini che abbiano appena più di 6 anni, appena insomma dai 6 anni in su, potranno essere prese le impronte digitali. E chi proviene da un paese che ha una percentuale di richiesta d'asilo che vengono accolte, che vanno a buon fine, non superiore al 20%, verrà rinchiuso in centri speciali di permanenza dai quali non potrà uscire fino all'accoglimento o al respingimento della sua richiesta di asilo. In caso di respingimento verrà espulso entro 3 mesi, e in questi 3 mesi rimarrà sempre chiuso in questi centri speciali di permanenza. Allora, da questa procedura lageristica, insomma, comunque non è purtroppo una novità, sono escluse in teoria le famiglie con minori e i minori non accompagnati, a meno però che sia i minori non accompagnati che le famiglie con minori non siano ritenuti un rischio per la sicurezza. Allora, questo è il tipo di guerra ai migranti che viene ogni giorno dichiarata da parte degli stati dell'Unione Europea. E ricordiamo anche un'altra cosa rispetto a questa cosa, questo servizio di polizia scientifica che si chiama AFIS, che è una sorta di banca dati che viene usata dalle forze di polizia. Allora, questa banca dati praticamente si basa sulla raccolta di dati biometrici. Dati biometrici che vengono raccolti quando le persone vanno a fare il permesso di soggiorno, colpisce, diciamo, questa schedatura, questa mappatura discriminatoria, colpisce prevalentemente le persone extraeuropee, e quando appunto vanno a fare il permesso di soggiorno, ma anche banalmente quando vanno a fare il passaporto o altri documenti, eccetera, tutti questi dati che vengono accumulati vengono incrociati e praticamente in maniera totalmente arbitraria vengono tenuti lì buoni per le indagini della polizia. Allora, si tratta quindi di un database dove sono raccolti questi dati, impronte digitali, appunto, nel caso anche di se persone hanno procedimenti penali ci sguazzano, e foto segnalamenti. Questa cosa colpisce anche le persone che hanno una cittadinanza italiana, poi vi dico anche i numeri perché è interessante, e anche le persone che hanno cittadinanza europea, però prevalentemente, nettamente sbilanciata la faccenda verso le persone extra, che provengono da paesi extra comunitari. E allora questo tramaccio è stato deciso con un decreto del Ministero dell'Interno nel 2017, quindi è nel 2017 che queste cose, questi dati sono confrontati sistematicamente con migliaia di altri dati senza motivazioni specifiche, al fine di essere utilizzati per finalità di polizia e indagine. La Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha dato questi dati nel 2022. 13 milioni e 516.259 cittadini extraeuropei sono stati colpiti da questa raccolta di dati biometrici. 1.654.917 cittadini dell'Unione Europea, Italia esclusa, 3.289.196 italiani. Quindi i numeri, insomma, non sono una cosa indifferente. Allora, contemporaneamente questa guerra dichiarata ai migranti e questa utilizzo insomma di dati biometrici, appunto di profilazioni continuamente per incastrare le persone, limitarle nella libertà di movimento, limitarle nella, in ogni forma di libertà appunto di autodeterminazione. C'è poi però un'altra faccia della medaglia. Che cosa fa l'Italia? Siccome scarseggia la carne da cannone, perché i giovani cosiddetti italiani stentano, diciamo, ad accettare di andare nell'esercito, comunque magari fanno domanda, partecipano ai concorsi, però poi così non sono così patriottici, allora lo Stato italiano ha pensato, sta pensando, visto le diverse guerre in corso e questi arruolamenti difficili, sta pensando di reclutare nuovi italiani, i nuovi italiani, e cioè di Crosetto vorrebbe così arruolare un certo numero di giovani cittadini stranieri, magari già residenti in Italia da qualche anno e con piena padronanza della nostra lingua, e anche interessati ad acquisire la cittadinanza, perché appunto, e ritorniamo al collaborazionismo, in cambio di questo servizio militare a termine, magari anche in corpi speciali, possibilmente in corpi speciali, il premio che viene dato alla fine di questa, di questo arruolamento è appunto la cittadinanza. E Crosetto illustra questa manovra come appunto la logica della riserva addestrata. Praticamente queste operazioni evocano la legione straniera, che comunque non c'è niente di, cioè non sono solo Stanlio e Ollio, perché la legione straniera c'è già in Francia, c'è in Spagna, anche negli Stati Uniti reclutano a nastro, insomma, personale dalle comunità di immigrati, e sì, e anche praticamente i paesi, diciamo, occidentali tendenzialmente o tendono a ripristinare la leva obbligatoria, vediamo in Svezia ad esempio, nei paesi scandinavi, in Danimarca viene estesa la leva obbligatoria anche alle donne, e oppure optano per questa forma di appunto inglobamento, insomma, di questi cosiddetti nuovi italiani, per dire come questa, come la, il dominio, insomma, così è molto ramificato, ecco, e in tutte le maniere cerca di portare acqua al proprio mulino. E sì, niente, direi che per questo così serie di collegamenti, di ragionamenti, può bastare così. Yeah! Bene, stiamo ascoltando questa band italiana da un loro album, mini CD uscito nel 2008, loro sono Cose Perse, e appunto questo è il loro terzo album, come dicevo, uscito nel 2008. Thank you. Bene, sfumiamo questo brano di questa band, loro sono i Cose Perse, era la loro terza uscita del 2008. Ora invece passiamo ad una band storica inglese, una band anarcho-punk che si era formata proprio alla fine degli anni 70, loro sono i Dirt, e dal loro primo album datato 1982 che si chiamava Nevermind Dirt, Here is the Bollocks, ci ascoltiamo alcuni brani. The way the line is drawn, if you're an individual who kills someone, then you're obviously a criminal. If you're an organisation who does it, the government, then you're not a criminal. Per me la rivoluzione è come una grande avventura d'amore. Al principio sembra una dea, una causa santa, ma come tutti gli amori ha un terribile nemico, è il tempo. E allora uno la vede com'è. La rivoluzione non è una dea, è una baldracca. Non è mai stata pura, mai santa, mai perfetta. Allora uno scappa, in cerca di un'altra amante, di un'altra causa, e si sporca negli amori più sordidi. Piacere, non amore, passione, ma senza sentimento. Senza l'amore e senza una causa noi non siamo niente. Restiamo perché crediamo e scappiamo quando siamo delusi e torniamo quando siamo perduti e moriamo perché abbiamo promesso. Eccoci qua in diretta per questo secondo intervento di stasera. Ho scelto così una spartiacque, mettere questo spezzone di un Era un western che devo ancora vedere, lo passavano in TV questi giorni, con Jack Palance, con la Claudia Cardinale, eccetera. Perché volevo appunto introdurvi all'argomento che cui tenevo. Sono uscite domenica questi, anzi è uscita domenica questo testo, si chiama Riflessione, di Juan Sorroque. Juan Sorroque è un compagno anarchico prigioniero nelle carceri italiane, si trova a Terni e sta scontando per il momento 14 anni e 7 mesi, ma tra poco andrà a processo per un'ulteriore questione relativa a una bomba al Nordigno contro la scuola di polizia di Brescia, e rischia un altro carico, non mi ricordo, un'altra decina d'anni, così. E quindi non sono bruscolini, come dice lui stesso, riferito ad altro. Di Juan però avevamo parlato, e il tempo passa, quasi un anno e mezzo fa, era diciamo ultimo pezzo di 2022, era uscito un opuscoletto, I due dragoni del mio anarchismo. A noi in questo testo invece del 24 ci sono, il titolo è esteso come sempre, particolare, ci sono delle considerazioni diciamo anche sulla situazione giuridica di Juan, cioè lui si fa delle considerazioni e manda insomma valutazioni a livello ecco generale del diciamo di movimento. Questa cosa però noi chiaramente vi invitiamo a andarvela a vedere, a chi ci ascolta, ma non prenderemo in considerazione stasera. Per questi 10 minuti 15 che abbiamo, invece ci interessava uno sguardo su questo compagno, perché dobbiamo dire, a me dispiace non averlo incontrato di persona mentre era piede libero, credo non sia mai passato da queste parti, noi non ci siamo mossi da qua in questi anni più di tanto, così è originale, è senz'altro originale, voglio dire, ma da uno sguardo, devo dire, una visione complessiva, dai, sulla teoria e sulla pratica di cosa vuol dire l'azione, cioè agire politicamente, ecco. Io partirei da un altro articolo che era uscito, cioè un estratto di un libro di tanti anni fa, di una trentina di anni fa, è uscito sul Rovescio, contro i militari, contro i tecnici, solo una frase, questo professore penso sia statunitense, adesso non ho approfondito, insegnava al MIT, Massachusetts Institute of Technology, dice: io conosco, sì, chiaramente è un libro critico sulla tecnologia questo, e ho assistito a questo fenomeno nei miei studenti, negli studenti ricercatori in generale, insomma, molto spesso, io credo qua mi sono ritrovato, l'ho visto anch'io questo fenomeno, come spesso dice, mi sembrava che le persone travolte dall'esaltazione emotiva per l'automazione, in particolare l'automazione, aggiungo io, condividessero non solo una serie di interessi tecnici, diciamo teorici, ma anche una coazione di fondo, erano sì le avanguardie della marcia dell'automazione, ma a loro volta erano spinte da qualcosa che formava la loro percezione della realtà e la loro immagine di un mondo ideale, cioè Quando si tratta di portare avanti un progetto, no, dice adesso non lo trovo più, ma comunque la gente lavora, salta la cena, parte il ritmo del giorno notte, fin quando non è finita questa, diciamo, si arriva all'obiettivo finale di questo progetto, c'è come una spinta chimica nell'organismo che porta appunto a questo trasporto, no? E viene scambiato per magari passione per la scienza o per la tecnica. Andrebbe tutto questo fenomeno però contestualizzato, fare un salto indietro, diciamo, da questa scena. Perché cosa succede? Di solito questo, lo dice Juan in un articolo sull'odio, cambiamo completamente il discorso, però l'odio, no? L'odio spinge a l'odio, diciamo, per le ingiustizie, l'odio per i propri nemici, non so adesso, per le mostruose, insomma. Le tragedie di cui si viene a conoscenza, eccetera, eccetera, spinge, diciamo, a impegnarsi, eccetera, sì, politicamente, fare, insomma, tutto quello che è noto nelle discussioni, nei saggi, eccetera, eccetera. Ma cosa succede? Questo qua in realtà è un metodo razionale di razionalizzare quello che è una percezione di rabbia, viene inserita dentro un quadro, diciamo, razionale, e poi viene messa in stand by, aspetta, sentimento di rabbia lo razionalizziamo e lo trasformiamo in un'azione politica, no? E cos'era? In realtà questo odio prende possesso di me, cioè è una un fenomeno di attaccamento, no? Il soggetto si attacca a quest'altra cosa, quindi diventa dipendente da quest'altra cosa, come per i tecnici portare avanti un progetto fino all'ultimo, fino ad arrivare all'obiettivo finale, diventa una droga, diciamo, per semplificare, così anche certi tipi di trasporto contro gridare slogan, queste cose qua, cioè per dire, oppure altri tipi di interventi politici sono in realtà viziati da questo tipo di attaccamento. Invece, diceva Juan, la ribellione, secondo me, lui dice chiaramente, io sono anarchico individualista, ma ognuno, insomma, dovrebbe valutare questa cosa, ma se lo ritiene, lasciarsi andare di volta in volta all'istinto e ascoltare ogni volta la ribellione, diciamo, l'intensità della ribellione istantanea, chiamiamola così, e colpire come l'avvoltoio colpisce la preda. E l'avvoltoio mica odia la sua preda, la colpisce freddamente, lucidamente, diciamo, non razionalmente, però anche, no? E questo dovrebbe essere un passo di un percorso lungo che porta a un modo di concepire di sé più pragmatico, cioè che porta a fare quello che si pensa e meno razionalizzante, meno anche, quindi aggiungo per semplificare, meno a rischio di autoritarismo e meno a rischio di dualismo, soprattutto perché i due dragoni vanno alimentati costantemente, altrimenti rimane uno dei due. I due dragoni sono l'interiorità e il primo dragone, quello che io sento, i sentimenti di ingiustizia, i sentimenti di trasporto, i sentimenti di solidarietà verso i compagni che sono prigionieri, eccetera. l'esteriorità e l'altro dragone è la, diciamo, il sentimento collettivo, cioè il cercare, lui dice, sì, il rispetto degli spazi-tempi degli altri, perché è giusto che c'è l'individuo, ma c'è l'individuo non equivale a egocentrismo, non equivale a, appunto, a autoritarismo dell'ego. È autentico, diciamo, saper creare da sé la lotta con gli spazi e tempi che ci appartengono, che appartengono a me, cioè nel senso di unico, stirneriano per dire, ma è nei nostri spazi e tempi, cioè non mettersi lì a aspettare, fare ragionamenti su, no, aspettare, attendere il momento propizio, eccetera, eccetera, i passi, però è giusto anche rispettare l'altro dragone. Cosa succede? Lo Stato non fa con la repressione altro che tagliare la linfa a uno dei due dragoni. Di solito, appunto, uno dei due dragoni, o l'interiorità o l'esteriorità, rimane isolato, rimane senza linfa, tagliato nel senso come se fosse una pianta, e quindi l'altro prevale, o quindi si arriva o all'eccesso di ego, cioè di non più percepire più quella che è la, sono gli stimoli che arrivano dalla realtà, o all'eccesso di, non so, di percezione della realtà, del contesto, il contesto sopravvento su tutto quello che invece è sono i miei istinti, quello che sento, il senso di ribellione, la sensibilità che ho, eccetera eccetera, e si frammenta lo Stato, quindi isola, frammenta e rende e naturalizza tutti questi fenomeni che sono l'isolamento. L'isolamento diventa una roba, appunto, cioè partiamo dal presupposto comunque che l'attaccamento è un effetto, non è, cioè l'attaccamento al metodo razionale è un effetto, cioè noi lo viviamo, diciamo, in senso logico, è il primo, diciamo, scoglio che, no, a cui andiamo incontro, l'attaccamento, cioè l'interiorizzazione di forme oppressive, no? Come può essere anche la tecnologia, ad esempio l'uso della tecnologia che ci di cui veniamo sopraffatti a un certo punto, no? Senza rendercene conto, viene interiorizzata questa cosa qua. E appunto, una cosa è questa, dicevo, e invece, però volevo dire, l'ordine in cui questi fenomeni sono stati messi, diciamo, dalla società autoritaria, coloniale, patriarcale, eccetera eccetera eccetera, razzista, eccetera, perché appunto il mondo che viviamo è un mondo schizofrenico, un mondo dove appunto le emozioni sono sostituite dalla rappresentazione delle emozioni, no? Società dello spettacolo, già da una cinquantina d'anni che si dice in lungo e in largo questo, appunto non è possibile sperimentare, diciamo, spontaneamente la propria, quello che è la propria, sì, le proprie caratteristiche, il proprio carattere, la propria soggettività, non è possibile più sperimentarlo spontaneamente, ma viene, appunto, prima è macinato in questa macchina che trasforma tutte le la vita in un'immagine che gestisce e mercifica. Per concludere, quindi, ci dà questo, diciamo, proposta, è la proposta di Juan Sorro, che è l'organizzarsi in senso organico e pragmatico, no? Che si lega anche, appunto, a una costruzione zen, se vogliamo, cioè un impianto zen di caotica della realtà e del soggetto, versus un organizzarsi in senso meccanicistico, finalistico, no? Che quello della tecnologia, quello della, anche della politica razionale, anche dell'organizzarsi che appunto di certe tendenze anche interne, movimento anarchico, organizzazione di sintesi, eccetera. Un testo molto interessante su cui mi sto così cercando di stimolarvi alla lettura, e vi rimando al testo stesso, molto stimolante anche tipo di scrittura di un personaggio appunto originale, nel senso anche che si è costruito da sé un tipo di modalità di esprimersi. E niente, era riflessione sul contesto generale delle cause della lotta, appunto, comunque il soggetto era le cause della lotta che vengono separate dal resto, no? E quindi la repressione colpisce i prigionieri, isola le cause della lotta le elimina dal procedimento giudiziario, quindi rimane una criminalizzazione delle pratiche che vengono contestate così, ma è una cosa che non è nuova, ma è semplicemente non è nuova nel senso che in Italia succede da mezzo secolo. È uno stimolo, ripeto, a riconsiderare un po' una visione diversa, un ritorno agli elementi più, diciamo, semplici, più immediati dell'agire rivoluzionario. Siamo sempre all'ascolto dei Dirt, come ho annunciato in precedenza, storica band dell'anarcho punk inglese, che ha esordito nel, proprio con un primo 7 pollici nel 1980, e questo è il loro album Never Mean Dirt, Here is the Bollocks, Dirt, zona Londra, Inghilterra. Per concludere questa, diciamo, siamo alla conclusione della puntata di oggi, che è l'11 aprile, di Zardins Magnetics, vado a leggervi una dichiarazione del compagno George Abdallah del 6 aprile. Dopo che l'avrò letta, faremo delle considerazioni insieme a un compagno che ha assistito all'udienza in tribunale a Trieste. Vi ricorderete senz'altro di questa vicenda di cui abbiamo parlato, stiamo già parlando da mesi. È una traduzione ovviamente dal francese. Dichiarazione del compagno George Abdallah. Cari amici, cari amiche, cari compagni e compagne, forse sarebbe utile ricordare che la precedente manifestazione di solidarietà davanti a questo centro è stata autorizzata solo dopo un ricorso al Tribunale amministrativo. Infatti, solo pochi mesi fa, le autorità interessate hanno finalmente smesso di vietare manifestazioni di solidarietà con il popolo palestinese. Tuttavia, faccia attenzione, chiunque giustifichi in un modo o nell'altro la lotta del popolo palestinese e evochi una legittima resistenza contro le forze di occupazione, demonizzazione e soprattutto criminalizzazione, dal momento che si tratta della lotta del Movimento di Liberazione Nazionale Palestinese e le sue varie componenti combattenti. Apologia di terrorismo viene inflitta molto rapidamente a coloro che si oppongono alla campagna di propaganda che giustifica e sostiene la criminale guerra sionista e denigra tutto il giorno le principali forze che si oppongono a essa. Naturalmente è solo sulla base della mobilitazione delle forze attive di questo paese, sarebbe la Francia, che i potenti rappresentanti del capitale sono stati obbligati a cedere e a revocare il divieto di manifestare con o senza che fie. E a seguito della forte mobilitazione in solidarietà con le masse popolari palestinesi, oggetto di un genocidio sotto gli occhi di tutti, che i media al servizio del capitale hanno dovuto lasciar trapelare alcune informazioni sulla portata delle indescrivibili atrocità a Gaza. In altre parole, nonostante tutto questo processo di fascistizzazione in corso in questo paese, il semplice fatto di assumere una mobilitazione solidale a livello internazionale contribuisce in qualche modo al rafforzamento della convergenza delle lotte e di conseguenza a un certo cambiamento negli equilibri di potere. Cari amici, care amiche, cari compagni, oggi attraverso le iniziative che state sviluppando sul terreno della lotta attuale, la vostra mobilitazione unitaria nelle diversità del vostro impegno apporta molta forza a tutti coloro che da tanti anni si sono espressi da dietro le mura abominevoli. Va detto che in questi giorni la situazione di coloro imprigionati nelle carceri ufficiali sioniste, soprattutto coloro parcheggiati in un recente campo segreto nel Negev, merita un'attenzione prioritaria. La loro semplice integrità fisica è alla mercé della barbarie dei soldati sionisti che agiscono come guardie carcerarie. La solidarietà internazionale, la vostra solidarietà, amici, amiche, compagni, è più che mai un'arma indispensabile. Cari amici, care amiche, cari compagni, da oltre 185 giorni il popolo palestinese è stato oggetto di un genocidio a Gaza e di una strategia criminale di distruzione sistematica in Cisgiordania. Più di 33.000 morti a Gaza, tra cui oltre 14.000 bambini e più di 75.000 feriti. Per non parlare di tutti coloro sepolti sotto le macerie delle case distrutte. E la resistenza di questo popolo eroico rimane incrollabile. Vergogna a tutte le potenze imperialiste che continuano a fornire armi a questo Stato e al suo governo accusati di tentato genocidio dalla Corte Internazionale di Giustizia. Solidarietà, tutta la solidarietà ai combattenti della resistenza nelle carceri sioniste e nelle celle di isolamento in Marocco, in Turchia, in Grecia, Filippine e in altre parti del mondo. Solidarietà, tutta solidarietà ai proletari mobilitati in questo paese. Onore ai martiri e alle masse popolari in lotta, abbasso l'imperialismo, sui cani da guardia sionisti e gli altri reazionari arabi. Il capitalismo non è altro che barbarie. Onore a tutti coloro che vi si oppongono nelle diversità delle loro espressioni. Insieme, compagni, e solo insieme vinceremo. A tutti voi, compagni e amici, i miei più calorosi saluti comunisti. Il vostro compagno George Abdalla. Alternate between the first two tops. Ecco, ci senti? Ci senti? Sì, ci sei? Sì. Eccoci. Sì. Ciao. Ciao. Allora, ciao. Ti volevamo sentire per fare qualche considerazione su questa vicenda di George Abdalla, se ci dai degli aggiornamenti. Sono già in diretta? Sì, vai. Sei in diretta. Ah, boh. Ciao a tutti e a tutte. Sì, io sono un compagno di Trieste, stamattina ero all'udienza per Giorgio Ibrahim Abdallah e praticamente c'è stato un rinvio al 6 giugno alle ore 15 per chi ci vorrà essere, sempre al Tribunale di Trieste, per capire cosa dirà Giorgio della videoconferenza. Perché in sostanza è accaduto questo, la Francia per la giurisdizione, per i reati che qui in Italia sono di competenza del tribunale collegiale, quindi con tre giudici togati, non riconosce la possibilità di fare la videoconferenza. E quindi e di fatto non accetta questa richiesta del Tribunale di Trieste. Allora, il processo messo così vede praticamente una conflittualità tra le due legislazioni, alla faccia del diritto comune europeo, insomma c'è questa contraddizione. In Italia evidentemente c'è un abuso ancora più forte rispetto alla Francia della videoconferenza, e noi lo sappiamo benissimo perché abbiamo seguito anche il processo di Luca Dolce Stecco a Trieste, e insomma in Italia si sa questo per tutti i processi che vengono fatti, soprattutto agli anarchici prigionieri, alla lotta fatta, lanciata da prigionieri come Giovanna ad esempio. Insomma, c'è proprio una battaglia in corso da questo punto di vista, giustamente da parte dei prigionieri rivoluzionari, che hanno fatto appello anche sempre ai solidari all'esterno. E quindi in Francia evidentemente l'abuso non è ancora così forte, anche se c'è anche lì la videoconferenza, e George dovrà in certo senso George dovrà scegliere, ci sarà in mezzo a questo cortocircuito, questo processo. E parebbe però, insomma, elemento di contraddizione per noi, che George voglia accettare di non presenziare neanche in videoconferenza, e questo insomma magari può cogliere di sorpresa. Probabilmente la situazione oggettiva sua è diversa da quella di altri, insomma, dopo 40 anni di carcere forse teme che questo processo, la continuità di questo processo possa essere un'ulteriore scusa per trattenerlo in carcere, nel caso ci sia questa famosa ipotesi per cui lui sta lottando da tempo di riconoscere la possibilità di essere lì liberato con l'espulsione verso il Libano. Forse lui vuole, prima di morire, vedere di nuovo la sua terra, la sua famiglia. Ma insomma, gli elementi potrebbero essere molti in questa decisione, parebbe decisione, però tutto è aperto al 6 giugno. Era presente il suo avvocato francese, quello storico che si vede intervistato anche nel film Fedain, e lui sembrava insomma, ha presagito il fatto che George potesse scegliere di non presenziare, di rinunciare anche alla videoconferenza. Ecco, staremo a vedere, questo è l'aggiornamento, ecco. Bene. Va bene, sì, direi che sì, per quanto riguarda questa situazione ci sentiremo sicuramente di nuovo, ecco, dopo a giugno allora. Sì, la situazione è, insomma, se mi è concesso, volevo dire che sì, forse c'è anche sono anche delle questioni internazionali in questo momento molto pesanti che riguardano anche il Libano, con la possibilità dell'estensione del conflitto, e forse anche questo influenza, sì, non so, mi è venuto in mente, sì, ma sì, forse sono mie riflessioni balzane, che l'altro giorno Joe Biden ha detto che forse gli Stati Uniti rinunceranno all'azione legale contro Assange, contro Julian Assange, un modo per Joe Biden in questo momento per tentare un po' di connettersi con un'opinione pubblica di sinistra negli Stati Uniti in vista delle presidenziali, un modo per dire: ma sì, tutto sommato sì, sostengo Israele, ma cerco di salvare la faccia su questi aspetti qua secondari. Forse qualcosa si spera anche in Francia, perché insomma ormai la crisi d'immagine dell'Occidente con le azioni di Israele in Medio Oriente ormai è pesantissima in questa fase. Non lo so, forse sono mie ipotesi balzane, e magari c'è una speranza, però c'è una speranza da questo punto di vista per George, ma voglio dire, di solito negli ultimi anni è accaduto l'incontrario, cioè le vicende del Libano hanno influenzato negativamente le sue speranze di uscita, nel senso che è stato sempre detto, visto che il Libano continua a essere un fronte caldo, la sua liberazione può galvanizzare ancora di più i libanesi contro il sionismo. Vabbè, cioè, comunque, ecco, questo, che siano motivi personali, che siano motivi strettamente giuridici, che siano motivi politici generali, che siano motivi il fatto che in Francia non è in corso una battaglia sulla videoconferenza, da quello che so io, da parte dei prigionieri politici francesi, mentre in Italia è in corso. Questo è quello che è accaduto oggi, e insomma vediamo cosa accade il 6 giugno, ecco. Senz'altro. Ti ringraziamo intanto, dai, ci salutiamo e... No, grazie a voi. Grazie. Alla prossima. Ci risentiremo. Certo. Senz'altro. Ciao ciao. Ciao ciao ciao ciao. Ciao ciao. Ciao. Grazie. Ciao. Their toy guns are going right, they put it to the smallest kids. You're the RGs and we're the British. Sì, due parole in chiusura per dire che avevamo intenzione di dare spazio questo giovedì anche a questo scritto della compagna Anna Beniamino dal carcere di Rebibbia, uno scritto appunto che analizza un po' tutta la situazione dell'operazione Scriptamanent. Il 24 aprile ci sarà appunto la seconda, per la seconda volta la Corte di Cassazione si pronuncerà. E in previsione di questo, appunto, Anna ha scritto un importante, insomma, sue riflessioni. Però, visto che non c'è tempo, dedicheremo con calma, insomma, con la dovuta calma, il giusto spazio a questo scritto il prossimo giovedì. Allora, intanto, ciao. Un saluto. Bene, sto sfumando questo brano di questa band spagnola della zona di Madrid. Loro erano una band, credo, simbolo della Spagna, del genere band anarcho-punk tra gli anni 80 e 2000. Loro erano i Sindios, da un album uscito nel 1993 che si chiamava Alerta Antifascista. Noi ci stiamo ascoltando appunto dei brani in sottofondo e continueremo a sentirli, perché siamo giunti al termine di questa trasmissione. Quindi, oltre ai saluti, vi ricordo i nostri contatti, anche se devo ricordare che questa trasmissione è Jardins Magnetics, che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane da Udine, diretta proprio dalle ore 20 alle 21.30, e oggi 11 aprile, giovedì. E i nostri contatti, oltre a ricordarvi che questa trasmissione viene condotta dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione di Trieste e Friuli, i nostri contatti, se volete scriverci tramite posta elettronica, è liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure potete scriverci scrivendo ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro 34121. Se volete riascoltare questa trasmissione, ma anche tutte quelle delle volte scorse, potete andare in rete cercando jardinsmagneticsradio.noblogs.org. Praticamente il gioco è fatto e lì potete smanettare e ascoltare quello che volete. Bene, ciao a tutti, al prossimo giovedì. Salutiamo anche chi ci ascolta domani in replica sulla web radio Radiazione dalle ore 17. Bene, ciao a tutti, vi lascio con Sindios dal loro album Alerta Antifascista 1993.